Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo pronti, operativi dal Groove Master Studio per il soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera al nostro super ingegnere del suono Riccardo Bomarzi. Buonasera, buonasera. Puntualissimo il nostro Bomarzi, naturalmente. Invece non posso dire la stessa cosa dell'ospite che abbiamo raggiunto telefonicamente, che doveva già essere qui, visto che io ho lavorato per lei mettendo in ordine la scaletta, scegliendo anche alcuni brani che possono essere anche rappresentativi della sua carriera, perché le piacciono più o meno le cose che ascoltiamo e che suoniamo noi al soundcheck. E vi sto parlando di Serena Brancale, che in questo momento è nella macchina, se di macchina posso parlare, di Francesco Tromba. Dove vi trovate? Siamo sul raccordo, stiamo arrivando, guarda, ci mettiamo pochissimo, Gegè, veramente è stata colpa mia, credimi. Che hai fatto? Hai perso tempo col trucco? No, è che ho sbagliato strada col navigatore, avevo le cuffie e mi hanno fermato, perché il navigatore si dice dritto, sì, ma in realtà non è mai dritto. Hai capito? Aveva le cuffie, l'hanno fermata, le cavallette, cose da Blues Brothers, naturalmente. Siamo qua. Vabbè, siamo, non fa niente. Tanto voi siete sul raccordo, quindi arriverete qui nel Groove Master Studio più o meno fra un'ora. Quindi noi finiremo la prima parte. Spero che tu possa arrivare in tempo, perché il Super ha già preparato tutto il set per farti esibire, no? Hai portato i tuoi strumenti? Sì, certo. Ce li hai in macchina? Vabbè. Allora cercate di arrivare un po' prima delle 20, delle notizie, delle informazioni di Radio 24, così abbiamo il tempo di fare il soundcheck e poi nella seconda parte ti potrai sfogare. Va bene, cioè, se tu hai bisogno di fare già un brano dal vivo, posso cantarti in diretta al telefono? Guarda, non ho bisogno di te, perché ho scelto musica bellissima, tipo Le Dizzy, nuovo album, No Name, poi ho messo Jill Scott, Erika Badu, ho messo D'Angelo, Kendrick Lamar, Roy Hargrove, e poi ho anche qui Pasquale Strizzi che si è materializzato. Ecco, ragazzi. Ciao Pasquale, ben arrivato. Allora, io chiudo intanto la telefonata con voi, non vi perdete, cercate di essere più o meno puntuali. Va bene, grazie a voi, ciao. Bene, allora io posso anche staccare il telefono a questo punto, così non vengo raggiunto da telefonate anche di parenti, soprattutto di mamma che cerca di verificare le mie condizioni. Mamma, sto bene e sto facendo la radio, e quindi se sei in contatto potrei verificare di persona. Bene, Pasquale Strizzi, anche tu nostro ospite, sei già stato qui da noi nel Groove Master Studio, ma è un piacere rivederti, e sei reduce anche da un bellissimo giro fatto come membro di una band fra le più accreditate del mondo, che è quella guidata dall'eccellente bassista Marcus Miller. Come è successo, certo, tutto ciò? Ma ricevo una chiamata da Alex Han, che è un mio carissimo amico, il sassofonista di Marcus Miller. Ci sentiamo di tanto in tanto e, parlando, alla fine mi dice che mi aveva messo in lista perché Marcus Miller stava cercando dei nuovi componenti del gruppo. Io non gli ho dato tanto peso, perché alla fine si sa come succede, però come succede in questo ambiente, tutto su passaparola. E, insomma, tipo una settimana dopo mi chiama la manager e mi dice che hanno scelto me fra i vari pianisti che erano in lista. E quindi, ma questa è una cosa bella. Questo comunque perché tu hai un vissuto lì a New York, negli Stati Uniti, dove hai frequentato quel tipo di ambiente. Perché tu sei uno dei pochi pianisti italiani, e qui lo possiamo affermare e confermare, che ha quel tipo di piglio, tipicamente black, che sta a cavallo fra il jazz e il gospel. Ma, perché a New York, quando hai vissuto, hai frequentato quell'ambiente. Non capisco perché ti ritrovi ancora una volta in Italia, ma ne parleremo, perché questo è il soundcheck Radio 24 in attesa di Serena Brancale. Direi di ascoltare una vocalist che secondo me in questo momento spacca sul serio, si chiama Lady Z, il brano è High dal nuovo album. Eh sì, una voce portentosa, unica, potentissima, intonata, fa quello che vuole la signorina Ledisi con un brano che abbiamo presentato qui al Soundcheck Radio 24 intitolato High dal nuovo album. Nostro ospite in attesa anche di Serena Brancale, vocalist, compositrice italiana, tra l'altro da poco rientrata anche lei dalla Svizzera dove ha registrato il nuovo album. Naturalmente il nuovo album lo ascolteremo, Bo Marzi, tu sai che ci sono dei tempi tecnici e quindi tutta la fase di editing, di pulizia, della registrazione, poi c'è il mix, poi c'è il mastering, quindi credo che ci metterà qualche mese a venire alla luce, però ci racconterà questa esperienza e in attesa di Serena, che porterà anche le sue attrezzature per fare qualche performance live, credo con Campionatore, insomma un solo fa, come fece Albert Era qui da noi, quindi con le sue macchinette, i Campionatori e via dicendo. E in attesa di Serena io vorrei trattenermi con Pasquale Strizzi, anche lui reduce da una bellissima tournée europea fatta nella super band di Marcus Miller, convocato dai suoi musicisti, fatta l'audizione, alla fine si è ritrovato a fare un bel giro per l'Europa con una delle band più forti in assoluto e con un musicista che insomma non ha bisogno di presentazioni, ha fatto tanto per il jazz, ha fatto tanto per il jazz contemporaneo, ha fatto tanto per la black music e anche per l'evoluzione del suo strumento. C'è qualcosa che dopo questa esperienza, Pasquale, hai appreso? Cioè tu vieni dal jazz, ti sei sviluppato a New York suonando proprio con la black music, hip hop e gospel, ma dopo questa esperienza c'è qualcosa che hai imparato? Che cosa ti ha insegnato Marcus Miller? Che cosa ti ha detto? Ha detto tu suoni con me, fai questo. Che ti ha detto? Qualche indicazione te l'avrà data? No, non mi ha detto niente. Niente, siamo, fantastico. Abbiamo iniziato, non ci sono state prove. Sono arrivato lì e... soundcheck e via. Infatti la cosa difficile è che prima di arrivare lì erano tante le cose che mi passavano per la testa, ma nel momento in cui sei lì... Vabbè, però insomma non sei andato lì da sprovveduto, ti avranno mandato spartiti, brani di riferimento? Non proprio. Non mi hanno mandato spartiti, questo non esiste. Non esiste, ha mandato partiture? Diciamo no, assolutamente no. Che ti ha detto? Solo i titoli dei brani? Due settimane prima di partire per la tournée, loro erano già in tour innanzitutto e quindi il mio amico sassofonista mi manda un po' di brani e imparo quella quindicina di brani. Una settimana prima di partire per il tour mi mandano una registrazione dei concerti e mi dicono adesso impara questi, faremo questi brani qui. Quindi ho dovuto imparare una decina di brani nel giro di una settimana e quando sono arrivato lì il giorno stesso del viaggio, boom. Proprio tipico dell'ambiente jazz, quindi il piglio è quello super groove tipico di Marcus Miller, di una band funk che coniuga il jazz, però poi insomma in pratica hai lavorato da musicista jazz, ti sei dovuto tirare tu le tue parti e è molto schematica la musica, ma dà anche molto spazio insomma molto libera di interagire. Va bene, io per omaggiare Serena Brancale, che non è arrivata insieme al tromba che le fa da chaperon, avevo selezionato un artista che ho fatto conoscere a Serena più o meno più di un anno fa, che è Noname, la rapper di Chicago. Eccola qui con Saba, Smino e Felix in Shadow Man. Soundcheck, il suono della musica di Gegé Telesforo. È un super classico, It's Love di Jill Scott. Credo che Jill Scott si sia fatta conoscere proprio con questa composizione. Questa è la versione rimasterizzata, sì, perché dopo un po' si sente il bisogno di dare una rinfrescata a livello acustico e sonoro a brani che sono stati magari pubblicati più o meno una ventina di anni fa. È una cosa che sto facendo anch'io, Bo Marzi. Hanno preso tutti i brani del catalogo, anche perché da poco è stato pubblicato il Songbook. Questa è una cosa che mi mette anche un po' in imbarazzo, mio caro Pasquale. Non è male. Non so che cosa significhi. Forse che veramente ho una certa età. Non lo so, comunque va bene, al songbook sarà allegato quindi un songbook in versione digitale con tutte le composizioni presenti, quindi ci sono tutti gli spartiti, tutti i testi dei brani originali. Non ci sarà invece il tuo brano perché non l'ho scritto io, Pasquale, perché Pasquale ha scritto per me, Pasquale Strizzi, nostro ospite, pianista, musicista, ultimamente impegnato con Marcus Miller. Come dicevamo, Pasquale ha anche lavorato con me anni fa per la realizzazione e la produzione di Fanslow Ride, Side, l'album che ha visto la collaborazione di alcuni fra i più prestigiosi vocalist e musicisti di New York. È stata una bella esperienza quella, Pasquale. Dai, alla fine sono passati solo 2 anni. Solo 2 anni, abbiamo lavorato molto e abbiamo lavorato anche molto bene insieme. Io poi ci siamo persi di vista perché i musicisti devono seguire l'onda, un po' come l'acqua, no? L'acqua va dove deve arrivare. E quindi tu hai seguito le tue peripezie musicali, io le mie, però adesso dobbiamo assolutamente trovare il tempo per rivederci, ascoltare un po' di musica e cercare di creare qualcosa di nuovo. Oltre a questo progetto con Marcus Miller, che cosa hai fatto ultimamente? Ma solitamente, insomma, faccio, produco, compongo, quindi il mio compito è quello di svegliarmi al mattino, comporre e poi trovare delle persone a cui piace la mia musica e vendere i miei brani. Che bella vita! Esatto. Non è male. Il problema per tutti noi è cercare di monetizzare il più possibile questo tipo di approccio con la realtà, no? Sì, diventa sempre più difficile nella music industry di oggi. Senti, come mai poi a un certo punto, dopo tanti anni negli Stati Uniti, studiando al Berklee College, tu ti sei diplomato in che cosa? In produzione? Mi pare proprio. In composizione jazz. Composizione jazz, ma poi hai fatto anche un corso di produzione? Ho studiato, sì, con degli insegnanti che hanno prodotto album di Whitney Houston. Insomma, dei ragazzini, eh? Sì. Esatto. Raccontami un po' questa cosa del corso di produzione discografica. Cos'è? Produzione hip hop, una cosa del genere. Sì, in realtà non ho proprio studiato produzione di musica hip hop, però nel corso più che altro si tendeva ad analizzare la musica hip hop e come funziona nell'ambiente della musica hip hop, cioè prendere sample di altri brani originali per incorporarli e crearci un beat. Quindi il guru, il riferimento del corso magari è Jay Dilla, che è considerato insomma il papà del nuovo modo di produrre la musica. In realtà black. Si va a dare più attenzione ai compositori che hanno composto in origine il brano, quindi magari più sul Motown, sul jazz. Ah, quindi insomma si parte dalla tradizione per arrivare alle nuove principalmente tendenze. Principalmente quello. Ok, allora, che abbiamo ascoltato Jill Scott, direi che allora di restare sulla vocalità femminile, quella che ha formato il neo soul, quindi da Jill Scott mi sa che non è difficile passare a Erykah Badu, e di Erykah Badu, Bomarzi, direi di passare proprio dal primo album, quello di esordio, intitolato Mama's Gun, che ebbe un grande successo, vi sto parlando proprio del 2000, sono passati 17 anni per Bacco, il brano è splendido, si intitola My Life. Soundcheck di Gegè Telesforo. Eh sì, e questo è stato un super progetto, una super band guidata da quel grande talento del trombettista Roy Hargrove, produzione chiamata DRH Factor, questo era il nome del progetto con il quale Roy Hargrove andava in giro con una super band che coniugava proprio quello che dicevamo con Pasquale Strizzi, nostro ospite, in attesa di Serena Brancale con la quale continueremo il discorso sul funk e sull'R&B, band che coniugava quindi il background tipicamente jazz con il piglio groove che non deve mancare per i musicisti contemporanei che vivono la realtà, perché oggi io pure non saprei dire, mio caro Pasquale, se mi piace di più il jazz o l'R&B o il funk o il gospel. Per me è bella tutta la musica, compreso la musica classica, insomma ascolto di tutto e oggi sono quello che sono proprio perché ascolto di tutto e mi piacciono tante cose, insomma non sono un integralista. Certo. Beh, la musica va contestualizzata secondo me, quindi nei tempi in cui ci troviamo probabilmente ci relazioniamo alla musica che va adesso. Assolutamente sì, e questo infatti era il progetto di Roy Hargrove, che qui in questo brano intitolato Poetry incontrava proprio un campione del rap intellettuale americano come Q-Tip e la voce di Erykah Badu, della quale abbiamo parlato più volte qui al Soundcheck di Radio 24. Senti, quindi da quanto tempo manchi da New York? Da New York è passato troppo tempo. Sono trasferito nel 2013 da New York a Los Angeles. Quindi ti sei fatto un periodo a Los Angeles. Sì. Molto diverse le due realtà, anche musicalmente, no? Sì, anche la temperatura molto diversa. La temperatura è più piacevole quella di Los Angeles per noi, assolutamente. Io non posso immaginare che freddo faccia a New York, anzi mi hanno detto che ancora regge, ma fra un po' farà freddissimo, intorno a fine gennaio, febbraio, lì arriva proprio la sberla terribile. Già iniziato a rendere miserabile la vita di tutti i musicisti. Io sono in contatto con tanti musicisti e quelli che mi fanno più pena sono i contrabbassisti. Perché c'è una cosa bella di New York è che nessuno ha la macchina, cioè puoi fare a meno della macchina, la macchina diventa proprio un vero e proprio problema perché non sai dove parcheggiarla e poi insomma si gira tranquillamente con la metropolitana e con i taxi, ma per i contrabbassisti prendere un taxi è complicato. Potete immaginare un contrabbassista che deve andare da un quartiere all'altro, che vive anche a Brooklyn e deve andare a Manhattan, si deve portare il contrabbasso fino alla fermata, salire sulla metropolitana, scendere e trovare poi la neve per arrivare la sera a suonare nel club, cosa veramente tosta. Ne ho viste di tutti i colori. È vero? Ho visto anche batteristi alzare un kit intero di batteria per la metro. Ah sì, assolutamente. Cioè che si portano il kit di batteria sulle spalle proprio nelle custodie. Sì. Anche io ero ridicolo, sembravo avevo un'arma, portavo un armadio. Perché ti portavi la keyboard, la tastierona, mamma mia. Però insomma per la musica si fa questo e altro, no? Sì, sì, infatti poi mi sono trasferito a Los Angeles. E sei stato meglio. Ho comprato una macchina. Ma sì. Bene, allora Roy Hargrove, da Roy Hargrove passiamo a un altro campione e questo ha spopolato quando uscì questo album To Pimp a Butterfly, continua a essere un musicista, un rapper di riferimento negli Stati Uniti, Kendrick Lamar con You Ain't Gotta Lie Mama Said, in attesa di Serena Brancale e il nostro Francesco Tromba, speriamo che arrivino in tempo, non sono ancora arrivati ma c'è anche l'informazione, quindi faremo un setup al volo se arrivano, se no ripartiamo da soli. Mi è arrivato ora un messaggio su WhatsApp, sono arrivato. Sono arrivati, ma che meraviglia. Andiamo, ci risentiamo sempre qui al Soundcheck Radio 24 subito dopo l'informazione. Soundcheck, il suono della musica. Seconda parte del Soundcheck di Radio 24 e abbiamo fatto tutto in tempi da record e quindi ringrazio ancora una volta il nostro super, ovvero l'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi. Praticamente hai fatto una bella sudata, ma ce l'hai fatta. Sì, perché quasi con un'ora di ritardo si sono presentati nel nostro studio il nostro Francesco Tromba, che saluto, buonasera, ben arrivato. Ciao a tutti. E la splendida Serena Brancale, finalmente. Farei un applauso a Serena Brancale. Benvenuta, ce l'abbiamo fatta. Che bella presentazione, grazie. Grazie, ti sei fatta attendere. Lo ma so, hai ragione, sbagliato. Lo so, le scuse sono sempre le stesse, il traffico di Roma, le cavallette, no? C'erano gli integralisti che hanno assaltato la macchina del Tromba, una panda. Siamo lì. Serena, è ben arrivata, non è la prima volta che vieni a trovarci. È la seconda, poi ci siamo visti anche in altre occasioni, perché abbiamo fatto varie feste e festicciole con altri amici e colleghi proprio qui. E ci siamo fatti anche delle belle suonate. E voglia. Oggi invece avremo la possibilità di ascoltarti dal vivo con una piccola porzione di quello che poi è uno spettacolo che tu proponi da un po' di tempo in Italia, ovvero Soul A. Sola nel senso che sei solitaria sul palco e te la suoni e te la canti con una serie di aggeggi che abbiamo montato. È un set limitato quello che hai portato da noi realtà è completo. Sono io limitata. Sei tu limitata? Certo. No, invece tu non sei per niente limitata, se no non staresti qui. Limitata, non so, musicalmente no. Nel senso che non sono una pianista, però ho questa tastiera a destra, la batteria a sinistra, ma non... Batteria elettronica. Elettronica, assolutamente. Ecco, allora tu non sono una pianista, non sono una batterista, non sei una cantante, ecco. Non sei una donna. Chi sei? Che sono? Cos'è questa cosa? No, invece metterei insieme tutti questi elementi per poi dare vita a un artista che io seguo da tempo, a parte che ti conosco da quando eri una ragazzina, Sì, io conosco, Ti conosco, che avevi 16-17 anni, che frequentavi le scuole di musica, insomma, poi siamo pugliesi tutti e due. Anche Pasquale Strizzi anche è pugliese, Pasquale. È vero, è una reunion di famiglia. Senti, raccontami qualcosa, sei stato ultimamente in Svizzera. In Svizzera, per registrare questo disco nuovo, che è il secondo, quindi non è che il secondo. Sì, perché tu hai registrato un primo disco, sì, che, con il quale poi sei andata direttamente al Festival di Sanremo con Galleggiare. Sì, sì, sì, è stato, diciamo, un'operazione non lavorata per Sanremo, ma quasi, nel senso che è stata molto creativa, ho avuto modo di esprimermi al 100%, ma in questo disco è come se mi sono liberata, scrollata di dosso anche delle paure, delle insicurezze. In questo nuovo? Questo nuovo che ho registrato in Svizzera. Ecco, tu hai registrato l'album da poco, adesso c'è tutta la fase, dicevamo prima, di produzione, l'editing, il mix, il mastering, quindi secondo te qual è la tempistica? Quando potremo ascoltare qualcosa? Potrebbe essere benissimo che a gennaio oppure a febbraggio. A gennaio, guarda, siamo agli ultimi giorni dell'anno, anzi domani è Capodanno, festeggi? Infatti, festeggi suonando o no? Festeggio ascoltando, faccio l'uditrice. Ah, certo. Vado ad ascoltare musica. Vai ad ascoltare musica, prima però ascolta noi, perché noi alle 19:15 saremo qui con la nostra musica. Domani preparo un airplay un po' funk, tromba, per festeggiare, andare alla mezzanotte con Capodanno, un po' di groove, sì, no? Con un po' di energia da spendere. Allora, raccontami di questo disco. Sei stata ad Ascona, in Svizzera, a registrare, dove si tiene d'estate anche un festival bellissimo guidato da Nicolas Gillet, che è il produttore del disco. Che è il produttore del disco. Una persona che ha creduto e ha inscatolato tutta la mia creatività in queste 10 tracce. Ha creduto, ha detto ti lascio libera, vai, e diverte. E tu con chi sei andata? Sono andata con Alfonso De Idda. Lo conosco, Alfonso De Idda. Poi? Domenico Sanna. Lo conosco pure Domenico Sanna. E Dario Panza, mi sa. Alla batteria, li conosco tutti e tre. Praticamente sei andata con il suono di chi ti sta parlando, no? Diciamo, elementi chiave. Cioè, io me ne vado. No, ma è io sono con te, sono contenta. Come ti sei trovata con questi ragazzi? Mi sono trovata che, niente, magari non ho cantato neanche. Andava bene già così. Va bene, senti Serena, io direi di intanto mi sa che ti puoi preparare, facciamo un ultimo line check per vedere che il suono sia buono. Nel frattempo direi di ascoltare una delle mie canzoni preferite fra quelle presenti nel primo album, che si intitolava Il gusto delle cose. Il gusto delle cose, esattamente come la canzone che sto per suonare. Ti piace? Mi va piace bene così. Se suono questa? Sì, Serena Brancale al sound check di Radio 24 con Il gusto delle cose. Dai Bomarzi, prepariamo tutto. Sound check. Il suono della musica. Pasquale Strizzi e Serena Brancale sono nostri ospiti. Pasquale Strizzi, con lui ci siamo già raccontati diverse cose nella prima parte del nostro soundcheck, poi si è materializzata nel nostro studio anche Serena Brancale, che ha preparato il tuo setup. Posso descrivere quello che vedo: un bel microfono che pilota un, come posso chiamarla, un multieffetto, non dirò la marca. Poi c'è una batteria elettronica che Serena suona praticamente con la mano sinistra, con la mano destra invece in alcune occasioni si mette le armonie su una tastierina USB di 2,5 ottave. Sì. Quindi piccolo setup che ti permette di andare in giro per l'Italia e proporre la tua musica. Poi naturalmente hai la tua band, hai realizzato questo nuovo disco, per ora le registrazioni, ascolteremo qualcosa, dici tu, a gennaio, secondo me andremo a finire a febbraio. Può essere, può benissimo, essere, perché tanto poi devi fare le copertine, le cose, già insomma, fatto. Hai già la fotografia. Ho fatto la fotografia. Il grafico prende tempo, insomma ci sono dei tempi tecnici che devono essere affrontati. Ora, quello che io voglio sapere da te, musicalmente, come ti sei formata? Cioè, che musica si ascoltava a casa tua? Tu sei, secondo me, fra le artiste italiane, quella più black nella matrice, e anche quella che in qualche modo ritmicamente esprime di più questa vena, questa peculiarità. Tu sei una delle artiste più ritmiche, tant'è vero che, insomma, adesso farai la performance, gli artisti non ti possono vedere, però noi registreremo anche con le nostre telecamere, però con una mano fai una cosa, con l'altra fai un altro tempo, con la voce ti muovi sincronizzando il tutto. Come hai fatto a mettere insieme questa virtù? Sì, in realtà è una virtù, cioè una fortuna, la reputo tale, che mi viene veramente facile. Nel naturale, senso, indipendenza. Sì, abbastanza. Infatti incominciai a studiare batteria perché volevo stimolare, volevo studiare questa, portare avanti questa grande caratteristica, che in realtà è vero, mi accorgo che mi viene facile fare questo riuscire a suonare, a portare il tempo e a divertirmi allo stesso momento. Sì, insomma, suonare più strumenti contemporaneamente. Più strumenti contemporaneamente e cantarci su. Con un'indipendenza tipica del percussionista o del batterista. Sì, sì, però un'indipendenza abbastanza semplice, nel senso non faccio cose difficili, astruse. Mm. Porto un beat semplice che riesco ad andare avanti e anche cantarci su. Penso questo derivi dal fatto che in famiglia balliamo tanto. Balliamo tanto. È vero, tu hai anche ballato, no? Io ho ballato, ma secondo me l'idea che la mia famiglia abbia una radice sudamericana, questo secondo me ha fatto molto. C'è una radice sudamericana? Non sì, lo sapevo. Sì, sì, c'è un po' di Venezuela. Nel DNA della brancale? Della madre, della brancale. Da parte di mamma? Sì. Sì. Questo è importante, no? Quindi ogni festa, ogni comunione, il matrimonio, balliamo tutti, e questa cosa secondo me ha lavorato molto sulla mia personalità artistica. E ritmica. E ritmica, assolutamente. Allora, io direi di fare una cosa. Che dici, Bomarzi? Vogliamo fare un po' di musica, quindi Serena, ti puoi posizionare dietro ai tuoi strumenti. Io direi di ascoltare, fammi una cortesia, perché non mi fai ascoltare la tua versione di Blackbird? Beh, questa è bellissima, fatta in questo modo è veramente originale. Quindi Blackbird, composizione di Paul McCartney, live Serena Brancale da sola, esattamente come il titolo della performance. Serena Brancale al soundcheck di Radio 24. Complimenti, Serena Brancale, dal vivo nel Groovemaster Studio. Beh, tromba, che dici? Beh, bravissima. È bravissima. Sì, sì. Tu lo sai, Serena, ti puoi avvicinare, Serena, ecco, puoi accomodarti, metti la cuffia. Tu lo sai che il tromba si innamora di tutte le performer che vengono a esibirsi nel Groovemaster Studio? No. Sì. Tutte. E ha questa debolezza. Quando vedi una ragazza dietro gli strumenti, impazzisce. Adesso ultimamente ha portato in tournée, proprio come ufficio stampa, Becca Stevens. È stato innamorato per 2 o 3 settimane. Vabbè, ci credo pure io. E pure tu, eh? Sì, sì. Mi dici quali sono gli artisti che ascolti in questo periodo? Ma in realtà sono sempre fedele a un gruppo che mi fa veramente impazzire, che sono gli Hiatus Coyote. Hiatus Coyote di Napalm. Sì, sono australiani. Sono australiani, sì. E niente, li conosco da almeno 4-5 anni. Grazie, penso, a una tua puntata o a una tua chiacchiera. Al nostro soundcheck. Sicuramente. E niente, rimangono sempre per me i migliori nella scena soul contaminata. Lei riesce veramente a fondere tutto ciò che è black, però a modo suo, con anche questo modo un po' arabo di cantare. A volte negli abbellimenti io ritrovo che ci sia questa tradizione arabo. Senti, dovendo ricevere 2 inviti a cena per domani sera, che è Capodanno, uno da Napalm e uno da D'Angelo, con chi andresti a cena? Ma è normale, da... Con D'Angelo. Sugar Daddy, D'Angelo al soundcheck. Ne parliamo fra un po', Serena, vai. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E si scoprono gli altarini. Abbiamo praticamente scoperto, a microfoni spenti, che Pasquale Strizzi, nostro ospite, ha scritto una composizione per Serena Brancale, anche lei con noi qui nel Groovemaster Studio, brano inserito nel prossimo album, giusto? Potevo dirlo? Sì. Potevo dirlo. L'hai Voglio detto. Sapere da Pasquale che cosa ha scritto per la Brancale, visto che tu hai il piglio tipicamente groove e la Brancale nel DNA c'ha naturalmente qualcosa di black e sicuramente di Sud America, ce l'ha detto lei. Insomma, siamo tutte e 2 baresi, lei è anche un po' venezuelana, quindi diciamo sud. Quindi ci stanno orecchiette con i broccoli. Sud, black American del sud, con un po' di spezie tipicamente baresi. Un po' di orecchiette. Ho capito, non ho capito niente, però poi, senti, perché non ce lo fate dopo questo brano? Si può accennare? Lo potete fare o no? Sì. È stato depositato? Sì. Sì, e allora lo potete suonare, in versione acustica, va bene. Allora, ci pensiamo mentalmente. Mm-hmm. Intanto volevo sapere da Francesco Tromba come stiamo andando, perché Francesco tiene il termometro del feedback su tutta la nostra comunicazione multimediale. Beh, molto bene. Serena c'ha un sacco di fan, soprattutto uomini. Ecco, secondo te per quale motivo, Tromba? Beh, perché è una brava cantante. È una brava cantante. Poi? E anche perché è una bella ragazza. Ecco, ci hai messo troppo a dirlo, tromba. Perché tu... è gentile. È gentile, sì, sì, è molto gentile il tromba. Senti Serena, noto che anche tu sei molto attiva sui tuoi social. Hai la tua pagina Facebook, ne hai dovuta aprire anche una seconda. Sì, sono timida e ho bisogno di esternare in maniera... Sto scherzando. No, non sei per niente timida, perlomeno quello che io vedo nei post, tu non sei assolutamente timida. No. Né nelle fotografie. No. Perché ti piace apparire anche abbastanza brutta a volte. Beh, tu sei, sì, una bella, sei una bella ragazza, molto però vanitosa. Sì, però appari con facce tipo anche sporca di sugo. Ma sì, con i peli. Con i peli, certo. Pure i peli fai sì, vedere. Sì. Tromba, vai a cercare la foto con i peli della brancale. Beh, quella con la barba l'ho vista. Sì, quella con la barba l'ho vista pure io. E poi funzionano molto i video che tu monti, con i quali prendi in giro un po' te stessa, il mondo delle cantanti. Sì. Cioè, che cosa prendi in giro? Lo stereotipo della cantante? Ma sì, la cantante che si prende un po' troppo sul serio, a volte lo sono io, perché in realtà parto da un'auto, cioè mi prendo prima di tutto io in giro. Una volta ho visto un post dove tu prendevi in giro, che cosa, i musicisti che suonano con gli altri, una cosa del genere, che cos'era? Ma ne ho fatti tantissimi, la cantante che vuole capire l'arrangiamento, quindi fa finta di capire. Sentiamo? Bella questa chitarra, questo è un basso. Questo conferma quello che dicono in tanti, che i musicisti odiano i cantanti. I cantanti, ci sono i cantanti che non sono musicisti e quei cantanti dovrebbero diventarlo. Quelli si fa fatica. Tu hai studiato, no? Sei stata anche iscritta al conservatorio, hai finito? Sì, non ho finito. Perché? Perché hai iniziato a lavorare. E perché ho cominciato a lavorare, varie esperienze bellissime che mi hanno portato ad andare fuori, ho congelato sempre, ogni anno congelavo. Mi fa ridere. Senti, però... tu hai però quel tipo di preparazione, perché sei una brava cantante, una brava musicista, sei anche particolarmente simpatica. Grazie. Potresti anche fare musical, sai? Mi piacerebbe un sacco, però ho problemi con la memoria, Gigi. Hai problemi con la memoria? Sì. E come hai fatto adesso, per esempio, hai fatto anche la tournée con Mario Biondi a imparare tutte le sue canzoni? C'era semplicemente un bellissimo gobbo. Ah, c'era il gobbo, quindi uno schermo sul quale tu leggevi tutti i testi. Sì. Che poi erano a memorissima, ma arrivavo lì e avevo sempre la paura della pronuncia, allora guardavo, poi non parliamo dell'inglese. Lo sai che insieme sul palco eravate una bellissima coppia. Funzionava molto lui bene. Lui quanto è alto? 6-7 metri, no? Sì, Mario, no? A livello di immagine. Non penso, Mario è altissimo, quindi però vocalmente è andata bene, va bene, lui è rimasto contento. Contentissimo. Siamo tutti contenti. Allora io direi, Serena, se ti va, di passare al prossimo brano. E il prossimo brano mi sa che è una cosa di Erika Badu, giusto? I want you. Allora Serena, tu ti puoi allontanare e andare in postazione. Noi facciamo un bel applauso a Serena Brancale dal vivo al soundcheck con questo brano per ricordare un suo idolo, ovvero Erika Badu. I want you, Erika Badu, nella versione live da sola di Serena Brancale qui dal Groove Master Studio. Serena Brancale che insieme al signor Ainè e a Davide Sciortino ultimamente si è anche divertita in tantissimo. Questa performance in tre con la quale avete aperto concerti importanti. Un paio di volte anche per Robert Glasper lo avete fatto. Anche per Solange. Robert Glasper è diventato poi un tuo amico. Sì, ho apprezzato molto che sia stato gentile e confidenziale nell'ascoltare, ma anche ha postato dei video del nostro live. Ho visto, Instagram. Io, guarda che a noi non sfugge nulla, noi seguiamo tutte le vicende di tutti, abbiamo notato che c'è questa corrispondenza anche su Instagram abbastanza attiva fra te e Robert Glasper. Chiederei al tromba se ne conosce il motivo. Non lo so. Secondo te, che sei una persona intelligente? C'ha l'occhio lungo. Robert Glasper al soundcheck qui in live in studio al Capitol Studios. Soundcheck, il suono della musica. DJ Telesforo. questo è I Shot the Sheriff di Bob Marley nella versione Fun Slow Ride, progetto con un collettivo incredibile di musicisti, qui le voci di Moses Patro e Joey Dragland, il tutto realizzato insieme a Pasquale Strizzi. Ormai lo abbiamo detto un paio di anni fa, ci siamo molto divertiti a realizzare questo arrangiamento e la produzione di questa nostra versione e questo arrangiamento di I Shot the Sheriff. Mio caro Pasquale, adesso dopo questa tua avventura con Marcus Miller non so come faremo, perché mi sa che diventa difficile venirti a beccare, o sei ancora disponibile per noi umani? In realtà al momento sono ancora abbastanza libero, quindi cerchiamo di impegnarci. Ti possiamo chiamare, no? Sì. Va bene, ti possiamo anche toccare? Va bene, non sono... Ci concedi anche una piccola performance adesso al pianoforte, non so se puoi accompagnare Serena Brancale, te la ricordi Serena Brancale, Pasquale? Come dimenticarsela, Serena Brancale. È indimenticabile. Serena, grazie per essere stata grazie con noi. A te, Gigi. Grazie tantissimo. Veramente, appena avrai realizzato il mastering del nuovo album... Posso tornare? Certamente puoi tornare, devi venirlo a presentare. Okay. E magari vieni con la band, con i tuoi musicisti. Che tu non conosci. Anzi no, vorrei essere più... Vieni con i miei musicisti e vieni a proporre... Ecco. No, è bella anche questa cosa, sì, no? Sì, dei musicisti, no. I miei musicisti, sì, i tuoi musicisti. No. Sì, sì. Fatto sta che sono bravi, eh. Hai voglia. Sono completi. Possiamo dirlo che in Italia possiamo vantare alcuni fra i migliori musicisti del mondo? Tanto, sì. Qual è il problema allora della nostra musica e dei nostri talenti nei confronti proprio del mercato internazionale? Te lo dico in un'altra parola, le cantanti e la casa discografica. Questa è un'altra cosa molto carina. Le cantanti e la casa discografica. Le cantanti sono un limite, quindi tu dici. No, per la casa discografica, cioè la cantante con il problema con la casa discografica. La casa discografica. Ah. In Italia. Mi sto allacciando a quello che hai detto tu prima. Se non ho capito bene, quindi il problema sono le case discografiche. Ma secondo me sì, perché vanno avanti facendo quello che va in televisione, quindi diventa tutto un mangia, televisione, casa di... Non si capisce la musica dov'è, c'è. È vero, tu dici si fa musica per la televisione e non per la musica. Sì. Tromba? Beh, sono d'accordo assolutamente. Figurati se non voleva essere d'accordo, perché quando c'è da diventare polemici lui è il numero uno. Ah, sì? Sì. Tromba, puoi abbracciare adesso Serena Brancale, anche perché domani festeggiamo l'ultimo giorno dell'anno. Serena, auguri. Grazie, complimenti, Gigi. Auguri a Pasquale auguri Strizzi. A vi potete allontanare, andate nella postazione pianoforte, settato il pianoforte Bomarzi. Allora, io come si intitola questo brano nuovo, Serena? Andiamo via. Andiamo. Ma è perfetto per chiudere il programma. Infatti. Allora andiamo via con Andiamo via, Serena Brancale e Pasquale Strizzi dal vivo dal Groovemaster Studio. Noi ci risentiamo domani per l'ultimo giorno del 2017 alle 19:15 qui dal Groovemaster Studio, sempre soltanto su Radio 24. Vai Serena. Grazie.